acquistano con consapevolezza proprio il rapporto individuale, quello che caratterizza il nostro settore, per un acquisto consapevole che viene vissuto molto spesso più come un investimento, sicuramente non è un acquisto d'impulso, ecco, diciamo. Ma quali sono i segreti del mestiere? Meglio l'insistenza o la discrezione? Lo abbiamo chiesto ad un venditore da record, Davide Simeoni, miglior venditore della Forwerk Folletto, oltre 1600 aspirapolveri, pensate, venduti in un anno. Ma segreti, diciamo, non ce ne sono. Applicarsi con simpatia, far vedere al cliente che, insomma, se è disponibile, partire presto la mattina e dedicarsi ai clienti, alle dimostrazioni, a fargli provare il prodotto. Cioè, non c'è un bravo venditore che sia discreto e non sia insistente, e non c'è un bravo venditore, ripeto, che sia insistente senza avere quell'umiltà di non essere troppo invadente. Sono vari fattori, ecco, secondo me, l'uno e l'altro aiuta. Gli esperti parlano di social home shopping o marketing sociale ad indicare l'ingrediente di successo di questo tipo di vendita, che è la riscoperta della dimensione intima, domestica, sociale, appunto, dei consumi. Una formula copiata recentemente anche dalla Microsoft, che ha organizzato veri e propri party casalinghe per il lancio dei propri prodotti e adottata in Spagna da Tupper Sex, linea di sex toys. $92. Ti prego, pensa a quanti soldi spendiamo in scarpe. Io non ho intenzione di usare questo coso. Mi terrò alla voglia per qualcuno che amo. Fantastico, c'è un uomo nella vignetta. Oh, guardate! Oh, ma quanto è carino! Io credevo che fosse un aggeggio orripilante, invece no, è rosa! Da ragazze! Oh. Sex and the City insegna: con le amiche cadono le inibizioni. Ora, un'azienda spagnola ha deciso di trasformare la regola in una felice intuizione di marketing per il mercato dei sex toys. Vendite a domicilio. Tupper Sex, in nome del servizio, al posto dei noti contenitori in plastica, le ultime novità in fatto di giocattoli erotici. Ormai sdoganati, bisogna dirlo, anche dalle boutique più glam in giro per il mondo. La formula è quella consolidata del porta a porta anni 70, quando le signore si ritrovavano in salotto per comprare cosmetici e prodotti per la casa. In Spagna basta fare un giro su YouTube e boom, in Italia siamo agli inizi. Salvo produce a veces un calorcillo che io dico che hay que aprovechar. Ancora Pozzoli. Ma guarda, io sono anche amministratore delegato di Tupperware, per cui c'è anche questo aspetto, per cui è stato preso a prestito non in maniera proprio, diciamo, adeguata il nostro nome ad indicare proprio il metodo dei parti. No, la notizia è che comunque sono già sbarcati in Italia, a quanto mi dicono un buon successo in Spagna, per cui potrebbe essere, ecco, anche un canale di sviluppo anche da noi. Oggetti spiazzanti come gli stickers effetto ruggine da appiccicare sulle auto nuove, cestini parlanti e gradini musicali per educare i cittadini. Quello che unisce tutte queste cose è il trickery, il trucco, lo scherzo, che diventa protagonista nei consumi. Ne parliamo tra pochissimo nel focus sui trend della settimana, subito dopo la pausa. Essere e avere. Resta di stucco, è un barbatrucco. Di nuovo in studio con Essere e Avere, l'ormai storico motto dei Barba Papà ci serve a introdurre il focus sui trend di questa settimana, dedicato al trickery, letteralmente gioco di prestigio, trucco appunto. Cosa abbia a che fare tutto questo con i consumi ce lo spiegherà come sempre la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. È una delle tendenze evidenziate dal trend book della Fiera di Colonia, uno degli appuntamenti clou del design. Nel settore sta ad indicare quella serie di mobili trasformisti che cambiano forma e funzione d'uso, anche con effetti sorprendenti. Ma i giochi di magia, per così dire, si ritrovano anche nella moda, nella pubblicità, nell'arte, nella comunicazione, all'insegna della sperimentazione e del divertimento. Patrizia. Trickery è, si può dire, la pratica dell'inganno creativo, dello scherzo, quello innocuo ma astuto, quindi della dissimulazione fuorviante ma mai sciocca, mai irriflessiva. Che cosa fa il consumatore che adotta una strategia tricky o tricksy? Gioca con la merce sul suo stesso terreno, e questo terreno è quella terra di mezzo tra il consumatore e i marchi, tra il consumatore e i prodotti del mercato, che possiamo definire immaginario. Ed è proprio lì che il trickster, così definiamo questo consumatore, agisce le sue pratiche giocose e scherzose. Un primo esempio facile e noto è il flash mob. In sé non è un fenomeno appunto sconosciuto, ma per capire lo spirito di queste pratiche vale la pena di riparlarne. Flash mob sono quelle mobilitazioni lampo, questi improvvisi raduni in spazi per lo più pubblici, dove le persone si ritrovano per fare una stessa performance, quasi sempre incomprensibile a chi osserva, e quindi è un qualcosa che produce stupore, perplessità, curiosità. Da citare, per capire di cosa stiamo parlando, è il collettivo Improve Everywhere, il cui motto è caos e gioia nei luoghi pubblici. Sono considerati dei geni nell'arte dello scherzo, e sono loro infatti che hanno inventato la giornata No Pants in Subway, quindi niente pantaloni nel metro. Bene, lo scorso 10 gennaio alla nona edizione hanno partecipato 5.000 persone, tutte rigorosamente in mutande, nelle metropolitane di 44 città del mondo in simultanea. L'idea è creare una discontinuità cognitiva, una riflessione che però sia generata dal gioco, appunto dall'ironia morbida, dallo scherzo innocuo, come si diceva, ma smart, intelligente, quindi che sappia reinterpretare le cose, scardinare degli stereotipi, mettere in scacco dei luoghi comuni, insomma dare una scossa stimolante al pensiero. In questo senso la recentissima campagna stampa Diesel Be Stupid, sii stupido, siate stupidi, è un perfetto esempio di quello di cui parliamo oggi. Allora, è tutta in inglese ed è giocata sull'opposizione tra gli smart, gli intelligenti, e gli stupidi, gli sciocchi. Sono molte le variazioni sul tema, ve ne traduco un paio, giusto per capire la tonalità di questa campagna. Per esempio, gli intelligenti criticano, gli stupidi creano. Gli intelligenti vedono le cose come sono, gli stupidi come potrebbero essere. Gli intelligenti hanno progetti, gli stupidi hanno storie da raccontare. Quindi i claim sono moltissimi e l'ironia non è per niente immediata, anzi servono alcune letture e riletture per entrare in questa logica spiazzante che in queste molte variazioni dice una apparente scomodissima tesi, cioè che gli stupidi sono davvero gli intelligenti e viceversa, giocando tra i significati letterali e quelli riattribuiti da Diesel, appunto, che scardina questo stereotipo. Alla fine la parola stupido risulta molto positiva perché rimanda a creatività, autenticità, spontaneità, emozione, eccetera, mentre la parola smart diventa negativa perché viene associata al conformismo, alla razionalità, agli schemi, alla prevedibilità, alla routine, alla chiusura, eccetera. Quindi, creato questo rovesciamento semantico, essere stupid diventa chiaramente più cool e c'è un maggiore consenso. E si può fare leva sul gioco, sul divertimento, sullo spiazzamento anche per educare la coscienza civica dei cittadini. Sentiamo come. Ve la ricordate la scena del film Big, in cui Tom Hanks, bambino diventato adulto per magia, suona con i piedi una tastiera gigante in un negozio di giocattoli? Per divertirsi allo stesso modo non c'è bisogno di andare a New York. Basta prendere la metropolitana a Milano, fermata Duomo. Da qualche tempo le piano stairs appassionano grandi e piccini e nessuno usa più le scale mobili. Provate a digitare Scale Piano Milano su YouTube. Una vera e propria educazione al movimento senza imposizioni, sfruttando il divertimento. Alla base c'è la spinta gentile, il concetto elaborato da Richard Thaler e Cass Sunstein nel bestseller NUG, Vademecum di Obama in campagna elettorale. La teoria sostiene che il modo migliore per aiutare le persone a compiere le scelte giuste deve fare leva sul divertimento, sul gioco, la fantasia e l'effetto sorpresa, senza imposizioni e vigilanza. Le campagne ispirate a questa teoria, adottate in numerosi esperimenti in tutto il mondo, dalla Svezia alla Colombia, vanno sotto il nome di The Fun Theory. Dai cestini parlanti a quelli segnapunti fino ai basket slot machine, dove chi butta una lattina vuota può vincerne un'altra piena. Risultato garantito. Tutti più educati e contenti. Patrizia, una teoria molto interessante che funziona soprattutto. I potenziali campi di applicazione, tra l'altro, sono moltissimi. Sì, certamente. Per come l'abbiamo spiegata, viene anche in mente subito l'arte contemporanea. Se pensiamo ad artisti molto noti come Maurizio Cattelan, provocatorio, per questo molto controverso, rientra in questa pratica del trickery, nel senso che lavora proprio sullo scarto di senso, ma un po' come fa tutta l'arte contemporanea, e dentro questo scarto di senso c'è proprio quello spiazzamento che è l'effetto, diciamo, più riflessivo, più interrogante, dissacratorio dei miti della contemporaneità, insomma, che fa riflettere sul senso del nostro presente. Allora, dicevamo che il tricker reinventa con molta creatività il quotidiano, quindi sia come soggetto sociale che come consumatore. Si sa districare nella complessità culturale del gusto e delle merci simboliche contemporanei, quindi è un abile manipolatore di regole. In questo è proprio sulla scia della tradizione che fa capo ai dadaisti o ai situazionisti. Oggi ci sono figure che impersonano molto bene questa tradizione, i contropubblicitari del movimento canadese di Adbuster, per esempio, che citiamo spesso, o i designer molto atipici del gruppo olandese Drog. Infatti, tra i prodotti e i marchi con codici espressivi molto tricky, gli oggetti di Drog sono un esempio perfetto. Infatti giocano molto sulla dispercezione, su queste apparenze un po' truffaldine, e dunque vengono ripensati e rovesciati. Per esempio, un tappetino doccia di spugna che ha incorporate le ciabatte, il cui uso però ha un effetto paradossale di falso movimento, cioè non ci si può più muovere ma solo asciugare stando fermi. Abbiamo delle aziende che realizzano oggetti centrando proprio questo concept. Per esempio, Cardapult fa biglietti da visita che si trasformano in catapulte per delle battaglie in ufficio. Sembra una cosa assolutamente bizzarra e giocosa, in realtà c'è un interessante slittamento di significato, cioè il biglietto da visita, simbolo di ruolo, professionalità, status, gestualità dello scambio rituale, che diventa un giocattolo, un gadget addirittura a perdere, quindi si piega, si appallottola e si lancia con la catapulta contro il collega vicino di scrivania. Questa battaglia molto dissacrante, diciamo che può aiutare a non prendersi troppo sul serio, perché in fondo il biglietto da visita non è la tua identità, ma rimane quel banale pezzo di carta multiuso che può anche diventare, come dire, alleggerente delle giornate in ufficio. E poi la moda dissimulante, dissimulativa. Un esempio su tutti, Comme des Garçons, che continua a fare abiti con volumi strani, con tagli strani in punti insoliti, inutili, per esempio una schiena rigonfia, facendo sembrare il corpo sotto il vestito altro da quello che è. E poi c'è questa bellissima beffa costruita d'arte da una rete di precari dell'industria della moda di qualche anno fa, che aveva avuto una grandissima risonanza mediatica e che nasce con questo spirito. La sconosciuta stilista giapponese Serpi Kanaro, che infatti era l'anagramma di San Precario, viene accreditata nel 2005 dalla Camera della Moda, sfila con 8 modelli dedicati alla vita lavorativa e fa degli abiti fascianti nascondi maternità, delle gonne anti mano morta, tutte piene di trappole per topi, oppure delle tute da lavoro che nascondono il pigiama, perché qualche volta è veramente difficile svegliarsi per i turni di mattina e uscire per lavorare, oppure abiti sdoppiati per chi fa due lavori. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra su Trickery e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buon pomeriggio. Ebbene, per le vie di Londra può succedere anche di imbattersi in un distributore automatico un po' particolare, nel senso che all'interno ci sono vasi, piatti, statuette di porcellana, insomma fragili oggetti che non sopravvivranno alla nostra scelta. Quando inseriremo le monete, infatti, l'oggetto del nostro desiderio non farà in tempo ad arrivare intatto e utilizzabile nelle nostre mani. Si romperà inevitabilmente quando la macchina lo lancerà dall'alto in basso, come farebbe con un sacchetto di patatine. Per qualche centesimo, quindi, non acquistiamo nulla se non il sottile compiacimento di vedere andare in mille pezzi la statuetta di un sorridente gattino della fortuna cinese, per esempio. Non è uno scherzo, o meglio non solo. Si tratta di una provocatoria opera d'arte, una scultura interattiva della coppia di artisti svizzero-danese Kublitz e Jarisal. Una macchina che, attraverso un gesto apparentemente senza senso, ma altamente liberatorio, ci induce a riflettere sulla natura ingannevole del consumo. Attenzione però, la notizia è chiaramente rimbalzata in rete. Ebbene, c'è chi si dice disposto a pagare cifre considerevoli, anche $50, solo per provare l'istantanea soddisfazione di mandare in frantumi gli oggetti appena acquistati. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, sperimentazione fine a se stessa che si presta tra l'altro a molte interpretazioni, anche critiche ovviamente, o qualcosa di più? Sicuramente qualcosa di più. Specifichiamo, per non incorrere in equivoci, che il consumatore tricky non è contro il consumo, ma neanche lo vuole subire acriticamente, e quindi in questo mondo dei consumi delle merci ci gioca, sovverte i suoi codici dall'interno e predilige quegli oggetti che riescano a produrre delle sorprese visuali, degli usi inediti, e che producano quello straniamento che diverte, quindi alla lettera, recuperando l'etimologia, che fa divergere, che depista e che quindi fa riflettere. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica, esseravere@radio24.it. Aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, soprattutto in previsione dei nuovi temi che stiamo preparando per settembre. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast, potrete scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere e Avere. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.